La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpure, eccoci all'ora settimanale di cinema qui su Radio 24, un'ora da vivere con le anticipazioni cinematografiche di questo fine settimana dominato da Toy Story 3 e con numerosi ospiti che vanno da Fabrizio Frizzi, doppiatore di Woody, a Domenico Starnone, grande scrittore e sceneggiatore, a tutte le nostre recensioni per quanto riguarda l'home video. Come sempre, tutto il meglio della Rosa Purpure nei titoli di testa. Il ritorno di Woody e Buzz Lightyear. Si animano ancora, questa volta in 3D, i giocattoli viventi della Pixar. È Toy Story 3 e promette di sbancare anche i botteghini italiani. Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Se lo chiede il protagonista del film omonimo, viaggio di un modesto cittadino della Virginia alla ricerca del barbuto più ricercato del pianeta, per rendere la Terra un posto migliore. Tutto il cinema di Domenico Starnone. A colloquio con lo sceneggiatore de La scuola e la febbre, autore di un libro che esplori il rapporto con la passione cinematografica. Adam Sandler, Chris Rock e Salma Hayek nel cast di Grown Ups, commedia in uscita nelle sale degli Stati Uniti, per scoprire che anche l'America ha i suoi bamboccioni. Andy andrà al college, mi sembra impossibile. Che vuoi fare di questi vecchi giocattoli? Calma ragazzi, non facciamoci prendere dal panico. Dove ci sta portando? Avrei dovuto aspettarmelo. Andrà tutto bene, Jessie. Oh, odio tutta questa incertezza! Ah! Nuovi giocattoli! Benvenuti a Sunnyside, amici. E queste sono alcune delle prime battute di Toy Story 3, il film con il quale apriamo e al quale dedichiamo molto spazio in questa nostra puntata, perché è l'attesissimo ritorno di un cult veramente di Pixar, il film che forse più di tutti rappresenta l'anima Pixar in casa Disney, quello che Pixar ha fatto in questo percorso. Sono passati tanti anni, ritroviamo personaggi amatissimi dal pubblico di tutto il mondo. Il film è partito fortissimo anche in America e probabilmente farà altrettanto in Italia, a dimostrare che anche l'estate, se corroborata da titoli di grande qualità, sicuramente può dare grandi soddisfazioni anche al botteghino. Toy Story 3 quindi, in 3D tra l'altro, anche in 3D, non solo in 3D, ma anche in 3D. È chiaro che il 3D in questo caso, con un film generato filosoficamente digitale, potremmo dire, chiaramente ha un suo perché, molto più che in tante altre pellicole. Avete sentito Andy va al college, il bambino che giocava con Woody, lo sceriffo, Bullseye, il suo cavallo, Buzz Lightyear, l'astronauta e ancora Mr. Potato, Slinky, eccetera. Ebbene, mette i giocattoli da parte perché è diventato grande e sta partendo per il college. La mamma gli dà una sorta di out, tutto quello che non porti con te al college lo devi buttare via. E molti giocattoli, tutti i giocattoli, tranne Woody, finiscono nella scatola che dovrebbe andare in soffitta. Per un errore questa scatola finisce invece vicino al bidone della pattumiera in mezzo alla strada. Arrivano gli spazzini e i nostri cominciano un viaggio che solo fortunosamente si conclude, diciamo così, ma è proprio lì che poi cominciano i guai, dentro un asilo, questo Sunnyside, il cui nome avete sentito dal vocione dell'orso che è molto paccioso, apparentemente, governa la tribù dei giocattoli di questo asilo, nel quale i bambini chiaramente ne fanno di cotte e di crude. Proprio fra questi personaggi scocca una scintilla fascinosa, e non potevano che essere due proverbiali amanti giocattolo, Ken da una parte e Barbie dall'altra. Ciao, io sono Ken. Io Barbie. Graziosi i tuoi scaldamuscoli. Bello anche il tuo foulard. Quello che succede dopo non vogliamo anticiparvelo troppo. Diciamo che le cose non sono come sembrano. Questo asilo si trasforma, anche grazie all'attenta regia di Lee Unkrich, in una sorta di lager per questi giocattoli, che la notte vengono riposti in stipetti che sembrano quasi gabbie, dove vige una sorta di dittatura, e non voglio andare oltre, e dove succede anche che l'imprevedibile Buzz Lightyear si trasforma, perché nel tentativo di resettarlo, lo trasformano nella versione spagnola. Hai aggiustato Buzz? Itacara, espandiamo. Più o meno. Good, la gliela recate! Oh no! Oh sì, il ritorno dell'astromatto! Davvero straordinario, Buzz Lightyear in versione spagnola. Ecco, ci fermiamo qui nel racconto perché c'è molto da scoprire. Il clima del film cambia molto, si ride, ci si diverte, c'è avventura, c'è anche qualche tinta fosca, quasi con venature, non voglio definirle horror, ma insomma con una regia e una serie di luci e di personaggi anche. Pensate a una bambola che vedrete, insomma, ricorda tanto Chucky. E insomma, è un film molto, molto pieno di varietà e alla fine soprattutto grande commozione. Dicevamo, personaggio che si introduce dentro questo Toy Story 3 come il gatto con gli stivali si introdusse dentro Shrek è questo Ken. Ovviamente c'è anche Barbie dall'altra parte, però Ken è preso proprio di mira dagli sceneggiatori soprattutto per la sua diciamo caratteristica di essere un gioco per bambine, e lui non si sente un giocattolo per bambine, come ci racconta in questa breve clip. Siamo in visita alla villa in plastica presso Fusa di una delle icone culturali più celebri degli ultimi 50 anni. Vediamo se è in casa. Oh, salve, non l'avevo vista. Benvenuto nella casa da sogno di Ken. Com'è una giornata tipica di Ken? Oh, stia a sentire, e lo dico sinceramente, sono un giocattolo come tutti gli altri. Indosso i pantaloni una gamba alla volta. Forte, eh? Ken ha dei bei jeans. È solo che sto benissimo quei jeans. Quale consiglio darebbe ad un giocattolo seriamente intenzionato a diventare un Ken? Beh, se sei un tipo serio... Non esserlo! Sei un bambolotto Ken, ed essere Ken vuol dire spassarsela! Eppure deve essere difficile per un bambolotto maschio essere un giocattolo per bambine. Eh già. Qualcuno l'ha detto? Beh, si sa che la maggior parte dei possessori di Ken sono bambine. Ok, senta. Sono un giocattolo da maschi, va bene? Sono un modello di comportamento, un modello virile di comportamento. Quindi non la disturba che sulla sua scatola il nome Ken sia 8 volte più piccolo di quello di Barbie? Un'altra domanda. Che cosa risponde a chi sostiene che in realtà lei non è altro che un super accessorio della Barbie? Ok, d'accordo, ora basta, l'intervista è finita. Lei non è divertente. Eh beh, se l'è presa molto Ken, allora, per essere un giocattolo per bambini. Straordinaria questa intervista, questo mockumentary potremmo chiamarla, realizzata proprio dalla Disney per lanciare il film. Film, abbiamo detto, straordinario, nulla da eccepire, tanta varietà, tanta qualità anche, il 3D usato molto bene, davvero complimenti. Toy Story 3 è nelle sale italiane e ci resterà per tutta l'estate, perché è un film che non andrà via così facilmente. Non capisci? Siamo finiti, obsoleti, siamo in declino. Ragazzi, lo sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. Verremo buttati via? No, nessuno verrà buttato via. Non gioca mai nessuno con noi. Calma, non è il momento di essere isterici. È il momento perfetto per essere isterici. Dovremmo essere isterici? No, sì. Forse, ma non adesso. Su, vediamo quanto ci quotano su eBay. Ancora uno straordinario momento di Toy Story 3, il film con il quale abbiamo aperto anche questa seconda parte della Rosa Purpura. Del resto il film sicuramente di maggiore impatto e anche di maggiore merito fra quelli usciti in questa parte della stagione. E avete sentito fra i giocattoli molto preoccupati in questo piccolo dialogo del loro immediato futuro, c'è ovviamente lui, il protagonista, Woody, il cowboy, il pupazzo più amato da Andy, che sta per andare al collo. E la voce di Woody da sempre è quella di Fabrizio Frizzi, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Salve Fabrizio, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie, è un grande piacere per me, e lo sono da 15 anni, dalla prima edizione, dal primo grande Toy Story. Beh, straordinario. E com'è questa simbiosi che si è creata? Perché io penso sempre che nei personaggi la voce sia, soprattutto al cinema, molto lo specchio dell'anima, molto più degli occhi, no? In un certo senso. Beh, insomma, è una, non so se sia nato per caso o se ai tempi le persone che mi hanno scelto per dare la voce a Woody abbiano visto in me una forte somiglianza al personaggio. Forse sì, direi, perché in realtà, a parte la camicia che non ho mai trovato uguale, altrimenti l'avrei comprata per somigliargli di più, ma fisicamente insomma abbiamo similitudini, sono un po' mattacchione anch'io come lui, ho cambi repentini di marcia nella vita, non nella voce, ma insomma nella vita, umore ricco di sfumature, insomma mi sembra di somigliargli, e forse Non è stato un caso se mi sono tolto gli occhiali nel 2002, quindi adesso gli somiglio più che nelle prime due edizioni del film. Beh, manca, come diceva, la camicia, ma anche il gilerino non è male, devo dire, effettivamente. È vero, quello non l'ho mai cercato. È straordinario. Cercato. Ecco, una cosa, è un personaggio, Woody, sì, certo, mattacchione, ma in questo film, per esempio, più che in altri, anche quello che cerca di crederci fino in fondo, che Andy non li abbandonerà, che questo ragazzo non li vuole lasciare per strada. Fabrizio Frizzi nella vita si fida fino in fondo delle persone, come fa ciecamente Woody del suo amico Andy. Sì, devo dire che anche in questo gli assomiglio, cioè sono una persona che crede alla parola data, che crede alla stretta di mano, che crede ancora a quello che dicono gli altri nonostante le mille fregature che ho preso nella vita. Nonostante tutti mi dicano da sempre che devo stare attento, che devo chiudermi, che non mi devo fidare degli altri, ma la vita senza aperture secondo me è molto meno bella e vale molto di meno, anche perché essendo aperti si vivono esperienze che altrimenti non si potrebbero vivere, e quindi sono anche in questo in sintonia col mio caro cowboy sceriffo. E mi piace tanto questo suo darsi, questo suo spendersi per i suoi amici giocattoli e cercare un legame, una mediazione tra quello che sembra e quello che invece dovrebbe essere. E poi insomma, adesso non svegliamo nulla perché chi vuole vederlo dovrà godersi tutte le sorprese, ma ci sono tanti momenti nei quali questo paladino dell'amicizia veramente crea momenti di grande emozione sia nel sorriso e in alcuni altri momenti anche nel segno della commozione. Non mi vergogno di dire che così come ho molto riso, così come mi sono stupito, stupefatto, sbigottito rispetto a tutti i cambiamenti, le sorprese dei vari momenti, sulla parte medio finale ho avuto anche due o tre momenti di commozione, perché ci sono dei momenti di grandissimo valore nel passaggio dei valori che credo e spero arrivino ai bambini che vanno a vedere il film. Beh, io non mi vergogno di dire allora, Fabrizio, visto che siamo in tema di grandi confessioni, che ho ringraziato mia moglie del fatto che avevamo sugli occhialini del 3D, perché perché era una cascata in quel momento, soprattutto anch'io, nella parte finale, veramente anch'io, un film di una anch'io commozione totale, e ci fermiamo qui perché vogliamo lasciare questa cosa. l'ultima domanda, Fabrizio, fare Woody, hai lavorato anche in Cars eccetera, ti viene voglia ogni tanto di doppiare davvero un personaggio, cioè di fare anche un po' il doppiatore, perché le capacità ci sono, insomma, ecco. Ma ti ringrazio tanto, è un bellissimo complimento, tenendo conto che fare il doppiatore a me, quando ero ragazzo, avevo 20 anni, piaceva talmente tanto che lo avevo identificato come una possibile carriera. Avevo iniziato a fare i primi piccolissimi doppiaggi, trovandomi spesso a doppiare con Pino Locchi, con Cesare Barbetti, con Ferruccio Amendola, piccole cose, piccoli anelli, i classici primi anelli che si fanno. Poi è arrivata la televisione e mi ha, come dire, portato via, mi ha rapito, insomma. Però devo dire, è un lavoro divertentissimo, ed è un lavoro di grande, come dire, dove bisogna dare un grande entusiasmo, una grande disponibilità al personaggio che devi doppiare. Quindi lo farei molto volentieri, però io credo che sia giusto poi lasciare fare ai grandi professionisti del doppiaggio, e tra attori e doppiatori ce ne sono veramente di bravissimi, insomma non voglio andare a rubare lo spazio agli altri, quindi io sono la voce di Woody, ma temo che non ci saranno tante altre occasioni, insomma vedremo cosa succederà, perché con Woody non si sa mai, e se dovesse capitare, certo, una cosa particolare la potrei anche fare, ma ecco, ma non credo di voler andare a pescare nel mare degli altri. E allora, aspettando Toy Story 4, chissà quali altri peripezie, la nuova voce di Woody di Fabrizio Frizzi, noi salutiamo il nostro ospite. Grazie Fabrizio, e grazie, buon proseguimento. È stato un grande piacere e onore partecipare a questo vostro programma. A presto allora. E abbiamo chiuso con Fabrizio Frizzi l'ampia parte dedicata a Toy Story 3, del resto, come dicevamo in apertura di programma, sono settimane queste nelle quali esce un film che occupa spazi clamorosi, non solo mediaticamente ma anche nelle sale, e altri piccoli film che fanno un po' fatica. Fra poco parleremo di uno di questi con il nostro Boris Sollazzo. Prima però dobbiamo aprire la prima finestra sul DVD Game di questa settimana e ascoltare la prima delle tre clip misteriose di un film che dovrete indovinare. Quella vergine chiusa entro una sfera di bianca fiamma che chiamano luna gli uomini splendendo liscia mi tocca, come la leggera stesa da soffi di brezza di notte piena. Esercita un potere immenso, non credi? Clima nero, sicuramente cupo e molta poetica nelle parole, chissà. La rosa purpurea @radio24.it se avete già indovinato di che film si tratta, altrimenti più tardi ci saranno ancora due possibilità per provare a indovinare il film e vincere quindi il Blu-ray proprio di questo film, ovviamente per il più veloce e bravo del sabato e della domenica. Noi andiamo avanti, dicevamo, con la programmazione cinematografica, con le novità al cinema. C'è un film che arriva nelle sale italiane, è un film un po' scombinato, un po' particolare, che parte da un titolo che è tutto un programma. Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Beh, il protagonista di questo film se lo chiede a tal punto che va addirittura a cercarlo. Sentiamo subito una clip. Se si impara qualcosa dai film d'azione ad alto budget è che complicati problemi mondiali vengono risolti sempre da un singolo uomo. Questo è un buon idratante, sì? Mm-hmm. E sa dove posso trovare Osama Bin Laden? Come? Sto cercando Osama Bin Laden. Perché ride? È impossibile. La sua missione è impossibile. Missione impossibile per il protagonista di questo film che sta cercando Osama Bin Laden. Boris Sollazzo, ciao! Ciao Franco, c'è chi aspetta Godot e chi aspetta Bin Laden. E chi aspetta Bin Laden e se lo va addirittura a cercare. Un film, dicevo, abbastanza scombinato ma molto divertente. Assolutamente, è scombinato, diciamo che è un marchio di fabbrica, perché se pensiamo a Super Size Me, alla ricerca del Big Mac, alla ricerca insomma della Mecca, del colesterolo, anche lì si partiva da una premessa e da una promessa fortemente faziosa, cioè mangiare tutti i giorni per un mese in un fast food per arrivare alle proprie conclusioni. E qui fa un po' più o meno la stessa cosa Morgan Spurlock, lo fa con una cosa più seria, dall'hamburger è passato al Re del Terrore, ma non cambia molto in questa gita che, lasciamolo dire, mi fa venire il sospetto che lui abbia fatto questa gita in Medio Oriente, dall'Egitto al Marocco all'Arabia Saudita fino ai confini del Pakistan, più per evitarsi i problemi della gravidanza della moglie che per cercare veramente Osama Bin Laden. Certo che è un tema, è un'altra, fra virgolette, delle paure dell'America, no? Ancora una volta Morgan Spurlock va un po' su questo. Lì c'era questa guerra all'obesità, che è una delle grandi guerre annunciate, purtroppo non solo negli Stati Uniti, ma insomma, e allora si partiva alla ricerca di quello che può arrivare, di questo nemico che può arrivare dall'interno, addirittura dalla propria alimentazione. Qui invece si va nel nemico con la N maiuscola, in quello che è diventato il simbolo di tutta una strategia con la quale gli Stati Uniti hanno affrontato e stanno affrontando il grande tema del terrorismo internazionale. Ecco, è un'America che si guarda dentro, anche se sorridendo, ma in maniera molto seria, quella di Morgan Spurlock. Assolutamente, volendo fare una battuta, si è passato dai problemi del giro vita al problema del giro di vite che si è fatto sul Medio Oriente. Osama Bin Laden, si capisce subito, è un testo ed è un pretesto. Spurlock vuole parlare della politica estera sbagliata americana, vuole parlare dell'incredulità di molti americani nello scoprirsi odiati all'estero, vuole parlare dei tanti danni che sono stati fatti dopo il piano Marshall, e lo fa con lo stile di Moore, con uno stile fazioso. Moore a Venezia una volta mi disse non consideratemi didascalico per far capire qualcosa a un americano, bisogna parlare come se fossi con un bambino di una scuola media. E Spurlock lo fa, a volte irritante, a volte didascalico, però è molto divertente e, lasciatemelo dire, rispetto a Moore secondo me ha anche una capacità migliore di scegliere la colonna sonora. No Pain No Gain potrebbe diventare un nuovo inno dei No Global. Grazie Boris per averci raccontato in pillole che fine ha fatto Osama Bin Laden nei cinema italiani. Noi ne ascoltiamo un'altra clip. Questo è un paese profondamente talebano, mi creda. Quando usciamo in missione ci aspettiamo di combattere, ci aspettiamo che ci sparino, là fuori è tutto lecito. Quando domandiamo... Ehi, lo sapete dov'è Osama? Indicano sempre. Vuoi venire a cercarlo con me? No? Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Yuhu! Osama! Ed eccoci di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, la terza parte del nostro programma, con un ospite che ci sta ascoltando già al telefono e che saluto. Ben trovato qui alla Rosa Purpurea, Domenico Starnone. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere qui con noi. Domenico Starnone, scrittore fra i più apprezzati del nostro contemporaneo letterario, ma noi qui alla Rosa Purpura ovviamente lo abbiamo in doppia veste, quella di scrittore ma anche quella, anzi direi in tripla veste, anche quella di sceneggiatore, ma qui di scrittore che ha tirato fuori tutte le sue emozioni e i suoi ricordi legati alla passione per il cinema, a quella malattia, come ha scritto Veronesi, che è la cinefilia, dalla quale uno guarisce a volte senza accorgersene, a volte non guarisce mai. Perché Domenico Starnone ha scritto un libro per Minimum Fax che si intitola Fare scene, una storia di cinema, ed è un libro che io consiglio vivamente a chi ama il cinema, perché è un libro nel quale ci si ritrova, anche se Domenico Starnone ci racconta la passione per il cinema in una città, in un periodo che magari possono essere lontani rispetto ad alcuni dei nostri più giovani ascoltatori, però io trovo che la passione per il cinema fino a prima dell'avvento di una fruizione legata soprattutto al multiplex fosse piuttosto simile, ecco, partirei da qui. Domenico Starnone, quello che lei racconta, l'incredibile attrazione per queste sale affollate, calde, per gli odori, per il velluto dei sipari d'entrata, non sono cambiati poi così tanto tra gli anni 50, 60, 70. C'è stato a un certo punto una svolta nel modo di andare al cinema, una tecnicizzazione della fruizione cinematografica che ha un po' forse anestetizzato questi sensi, è così? Io devo dire non so, nel senso che la mia educazione cinematografica risale a quegli anni lì, tra la fine degli anni 40, anni 50, 60, eccetera. La memoria gioca naturalmente brutti scherzi, nel senso che si idealizzano momenti, esperienze. Nel libro io a un certo punto mi chiedo, ma per un bambino di oggi che va al cinema oggi nelle multisale accade la stessa cosa? C'è lo stesso incanto? Ed è una domanda a cui non so rispondere. Io sono uno spettatore che è passato da quelle sale lì alle multisale senza soluzione di continuità, dalle sale fumose a quelle dove non si fuma, dalle sale con l'intervallo a quelle dove non c'è intervallo, dalle sale in cui si poteva entrare in qualsiasi momento facendo un gioco di intelligenza, cercando di ricostruire personaggi, trama e così via, alle sale invece dove si entra solo a inizio spettacolo e si esce di corsa a fine spettacolo. Lei aveva una sensibilità rispetto ai film che racconta nel libro, non era certo quella dei suoi fratelli, per esempio. È bella questa descrizione che lei fa, che quando finiva il primo tempo lei voleva sentirsi, tenersi imbrigliato il film negli occhi, e per questo a un certo punto cominciò a chiudere gli occhi durante l'intervallo e a cercare di rivivere l'ultima scena in modo che ci fosse continuità, magari invece di comprare il gelato che il venditore passava a prendere, aveva questa cosa. Ecco, questa è una descrizione molto bella. In questo senso le chiedo appunto, cos'è stato per lei questo passaggio, cioè questo cinema vissuto da bambino, di quali film si nutriva, di quali immagini voleva rimanere prigioniero? Io non ho avuto una formazione da cinefilo, ho avuto una formazione da cinema popolare in linea di massima di seconda o terza visione. Un cinema che si vedeva spesso anni dopo la sua prima visione, il cinema dei western, il cinema con Totò, il cinema delle commedie, il cinema dei Melò. I miei genitori, mia nonna, io andavamo a cinema per vedere queste forme di spettacolo. Allora io ma anche tutti gli altri, tutti quelli che vedevano questo tipo di film, non sapevamo niente di sceneggiature, non sapevamo niente di registi. Il film si vedeva perché c'era un attore che ci piaceva, un attore con cui ci identificavamo. I corpi degli attori servivano nella sostanza come modelli, i loro movimenti venivano imitati, un certo modo di buttare via la sigaretta o di parlare era la voce del doppiatore, ma noi neanche questo captavamo, per noi quella era la voce dell'attore, del corpo che avevamo sullo schermo. Insomma, è questo clima qui, che si è perso, che non c'è più, che però ha formato quelli che oggi hanno più di 60 anni, insomma. My sister did all that in one afternoon. That Vita certainly is a whirlwind, isn't she? Good heavens, man, haven't you any righteous indignation? Oh, doctor, you know, years ago, my mother used to say to me, she said... Questa voce morbida, vellutata e profonda insieme è quella di James Stewart. Ve l'abbiamo proposta perché nel libro Domenico Starnone dice che lui, ecco, parlava prima di modelli, di corpi nei quali, come i quali sentirsi. E Domenico Starnone si sentiva Jimmy Stewart, aveva questa caratteristica. Perché? Diciamo per motivi familiari, non è che io mi sentissi Jimmy Stewart. Ma poiché Jimmy Stewart era un modello fisico che assomigliava a quello dei miei familiari, mio nonno, un po' mio padre, i fratelli di mio padre, eccetera, quel tipo fisico diventava il tipo fisico con cui riconoscersi, con cui entrare in familiarità corporea, non so come dire, con la cui fisionomia ci si sentiva particolarmente vicini, ma questo valeva per... credo per tutti, gli attori venivano anche oggi, sono così amati perché in qualche modo abbiamo voglia di ridisegnarci sui loro corpi, di riadattarci al loro modo di gesticolare, di parlare. Poi a un certo punto, e nel libro, il libro è proprio diviso in due tempi, primo tempo, intervallo e secondo tempo. Il secondo tempo è quello del Domenico Starnone, sceneggiatore, quello del Domenico Starnone che si mette a fare scene, come cita appunto il titolo del libro stesso. Noi ascoltiamo adesso un dialogo, un breve stralcio di un dialogo tratto da uno dei film scritti da Domenico Starnone, un grandissimo successo di qualche anno fa, che fu La febbre. Sentiamo. Lo sai che dopo domani parto? Sì. E perché non mi dici niente? Ma è la verità? Io voglio sempre la verità. Perché non ho le palle. Né per chiederti di rimanere, né per venire con te, e tu piuttosto. Io che? Perché stai con uno come me? Lo sai che me lo chiedo anch'io. Mi piacciono i tuoi pensieri. Profumano. Domenico Starnone, cosa ha portato nella sua attività di sceneggiatore del Bambino del Vomero, del Cinema Stadio di Napoli, di quelle esperienze, di quella educazione cinematografica? La formazione, quel tipo di formazione, in realtà ha portato innanzitutto una sorta di amore inestinguibile per il cinema. Qualsiasi tipo di film, io sono di quegli spettatori che si devono tutto, dai film bellissimi a quelli riusciti male. Per me il cinema è un luogo ipnotico dove anche quando il film non funziona, lo star dentro, lo star lì seduti, lo star di fronte a ombre e luci che si muovono, rasserena enormemente. Quando scrivo film mi piacerebbe riuscire a fare un film che comunicasse quel tipo di fascinazione, mi piacerebbe raccontare quella fascinazione attraverso i film che scriviamo. Disgraziatamente è un'operazione molto difficile, nel senso che il passato ci nutre, ma è cattiva cosa riprodurlo. E beh, con questa che mi sembra quasi un mantra di cui dovremmo circondarci, attenti alla riproduzione del passato, va proprio, come dire, maneggiato con cura. Io ringrazio Domenico Starnone di essere stato qui ospite, graditissimo, alla Rosa Purpura. Ricordo il libro edito da Minimum Fax, Fare scene, davvero una bella lettura per chi ama il cinema. Grazie Starnone. Grazie a lei. E allora eccoci alla seconda traccia del film misterioso di oggi. Sarà piena stasera la luna. Un piccolo dono per te, Lawrence, nel caso non trovassi la vita splendida come può essere o non essere. Elemento fondamentale seminato in questa seconda traccia. Vi ricordo l'indirizzo @larosapurpurea@radio24.it. Se avete indovinato, più tardi, un'altra possibilità. E siamo alla nostra rubrica Trailer USA, le anticipazioni cinematografiche americane. Oggi parliamo di un film che si intitola Grown Ups. Potrebbe spiegare di più il titolo italiano, non fortunatissimo, con il quale uscirà nel prossimo mese di ottobre, Un weekend da bamboccioni. Ma insomma, un film che è una sorta di commedia generazionale con Adam Sandler, Chris Rock e Salma Hayek. Si riderà, si rifletterà, ma facciamoci raccontare la trama dalla nostra Micaela Bellisario. Sì, ciao Franco. E come hai anticipato, Un weekend da bamboccioni è la storia di cinque amici, vecchi compagni di squadra, che si riuniscono 30 anni dopo in occasione del funerale dell'allenatore di basket della loro infanzia. Un momento triste, però loro sono felici ovviamente di rivedersi. Poi con moglie e figli decidono di trascorrere insieme il weekend del 4 luglio nella casa sul lago dove anni prima avevano festeggiato la vittoria della squadra. Ma passiamo al trailer. In questo passo sentirete alcuni dei protagonisti che si riconoscono fuori dalla chiesa tra pacche sulle spalle, prime gaffe, sorrisi e battute. Hey, what's up, Lenny? Buddy, I thought you were gonna start working out. What does that mean? You're fat? No! This must be your mother. My wife. I'm sorry. I'm not. Naturalmente i cinque amici nel weekend che passano insieme ricreano le classiche atmosfere del passato tra scherzi, bevute, grigliate con loro, come dicevo, mogli e figli. Come finisce? Tra gaffe ed equivoci di ogni genere, ovviamente, i cinque vecchi amici scoprono che crescere non significa necessariamente diventare adulti e forse scoprono tutto sommato che il tempo cambia comunque le persone. In questo passo del trailer sentiamo uno di loro che durante un'escursione in montagna con tutte le famiglie presenti cade da una fune battendo la testa contro un albero. Il passo è ovviamente abbastanza comico e racconta una delle avventure e disavventure di questo weekend. Rope on a tree, baby. Class is in session. Oh, baby. This was a mistake. Let go. Insomma, finisce, come avete sentito, in maniera abbastanza ruvida. Film che sarà nelle nostre sale il 15 ottobre, già uscito negli Stati Uniti, dove nel suo primo giorno di proiezione ha fatto 41 milioni di dollari. Quindi buona partenza per questo film che si è piazzato proprio dietro Toy Story 3. Ciao Micaela! Ciao Franco, alla prossima settimana! La quarta parte del nostro programma, le nostre visioni domestiche, i film da vedere, rivedere o registrare in casa, si apre come sempre con i consigli del settimanale Film TV, che ha pescato nel listino in chiaro gratuito della prossima settimana. Sentiamo cosa ci propone Sara Sagrati. Buongiorno Franco, bentrovati con le segnalazioni della settimana di Film TV. Questa settimana si tratta di una prima su Canale 5, lunedì 12 luglio, in prima serata, cioè Giorni e nuvole di Silvio Soldini. Il regista è in trasferta genovese con Margherita Bui e Antonio Albanese, coppia benestante che ha una bella vita solida e serena. Però purtroppo Michele, in questo caso appunto Albanese, marito e padre, si ritrova a essere licenziato e quindi le cose insomma un po' si complicano. Con questo film Soldini racconta la crisi del lavoro e della società da un punto di vista abbastanza inedito, quantomeno per noi italiani. Non tanto quello della generazione 1000 euro, ma piuttosto quella di, diciamo così, dei poveri di ritorno, quindi di chi perde il lavoro e fa veramente fatica ad affrontare una nuova situazione con problemi economici e anche con la necessità di trovare una forza per andare avanti. C'era un forte rischio di perdersi in un film magari un po' ricattatorio o piuttosto che patetico, invece Soldini se la cava egregiamente, non girando a vuoto, sfruttando la bravura della Bui e di Albanese che danno veramente il 100%, recitano con tutto il corpo, e quindi il film racconta semplicemente con un finale aperto molto commovente, vi assicuro che non è uno spoiler, non ve lo potrete aspettare, una storia attuale, una storia semplice e purtroppo sempre più condivisa. E con questo è tutto, a risentirci alla prossima settimana. Grazie a Sara Sagrati, davvero un film che ha messo il dito in una delle piaghe della nostra società, insomma la precarietà che arriva non solo per tanti giovani ma anche per chi magari a 45-50 anni si trova di fronte alla drammatica perdita del lavoro. Un film di grande sensibilità da Soldini, in onda lunedì su Canale 5 alle 21.10 in prima TV, in chiaro, quindi un film assolutamente da recuperare. E noi siamo a questo punto alla terza e conclusiva traccia del DVD Game di oggi. Ascoltiamo. Chiunque fosse stato, era grosso, con gli artigli, e non veniva neanche scalfito dai pallettoni. Fu così che mio padre tornò a casa, fuse i cucchiaini d'argento della dote di mia madre e forgiò delle pallottole d'argento. E insomma, c'è tutta la spiegazione di come ci si fronteggia con una belva, diciamo così. La rosa purpurea @radio24.it, se avete indovinato, per provare a vincere il Blu-ray di questo film. In attesa delle vostre risposte, noi andiamo indietro di 7 giorni. Avevamo giocato con un film che per una volta merita l'aggettivo mitico. Sentiamo. Avre le orecchie, ascolta, Pendego. Prova a fare una delle tue stronzate de pazzo. Prova a tirare fuori il ferro. Io te lo strappo da mano, te lo metto nel culo e poi premo il grilletto hasta che sento il click. Il grande Lebowski, The Big Lebowski, straordinario il momento che vi abbiamo proposto, uno dei ruoli, forse il ruolo nel quale John Turturro ha dato veramente il massimo di sé, scene che rimangono imbrigliate nella nostra memoria, lui vestito tutto di paillette con questa palla da bowling in mano con la quale fa cose che non si possono raccontare neanche in radio, ma si possono vedere al cinema in DVD. Hanno indovinato per primi e vinto il Blu-ray del grande Lebowski Mirko Bordignon di Castelfranco Veneto e Luigia Varani di Valle Crosia, e riceveranno appunto il Blu-ray del grande Lebowski, che ci facciamo raccontare in questa edizione un video dal nostro Claudio Poffi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, il Blu-ray da Cecchi Gori Entertainment è veramente notevole, siamo in zona eccellenza grazie a un pregevole master video. Segnalo questa doppia traccia DTS ad alta risoluzione in italiano e inglese. Per gli extra segnalo interviste ad alcuni degli interpreti principali e un interessante making of. Questo per quanto riguarda allora il grande Lebowski. Noi andiamo a una segnalazione di un film meno frequentato, diciamo. Si dice spesso il cinema italiano fa fatica, certo, perché ci sono anche pochi spazi, magari in certi momenti anche poche idee. Non è il caso di questa pellicola, che viaggia un po' in quel retroterra del mondo del calcio più dorato, quello dove non c'è nulla invece di dorato, dove ci sono tante speranze, a volte anche mal riposte, ma viaggia anche in un segmento che è quello del rapporto fra pupillo e maestro, fra mentore e giovane. Allora, questo è un po' il clima di Piede di Dio. Sentiamo. Ci sono quelli che giocano per lo 0-0 e quelli che giocano per vincere. Ed è ovvio che se giochi per vincere rischi di prendere qualche gol. Però io penso che se tu sei forte e giochi per vincere, alla fine della partita, per quanti gol tu possa prendere, ne farai sempre uno in più dell'avversario. Ed è questo quello che conta, no? Insomma, io sono uno che preferisce vincere 4-3 anziché fare 0-0. Ora, io sono sotto di un paio di gol, lo so. 62.700 euro. Siamo nell'estate del 2006. Michele è un procacciatore di talenti calcistici, ma si trova anche in guai finanziari. Si trova a osservare alcuni promettenti giovani raccomandati in modo più o meno lecito, ma a colpire l'attenzione di questo talent scout è Elia, 18enne poco maturo, che potrebbe svoltare grazie al calcio e risolvere anche i problemi economici di Michele. Calcio come fuga da una realtà di vita troppo piccola, un racconto, quello del regista Sardiello, che avanza poche pretese dal punto di vista estetico. La Koch Media il DVD, buona la qualità video, traccia audio Dolby Digital, solo 2 canali. Per gli extra segnalo un making of e una scena tagliata. Koch Video, che come sempre mette davanti la qualità filmica, e questo è davvero un pregio di questa casa di distribuzione. Noi andiamo avanti, andiamo a pescare un film che arriva in un video, ma è stato uno dei film della prima parte di questa stagione sui quali c'era maggiore attenzione. Si intitolava Amabili Resti. Non ero salva. Un mio vicino di casa mi stava osservando. Se non fossi stata così distratta, me ne sarei sicuramente resa conto, perché sono cose che mi danno i brividi assurdi. Ma ero troppo presa a chiedermi quanto fossero lunghe le ciglia di Racing. Le contavo una ad una quando andavamo in biblioteca, e lui leggeva Abelardo ed Eloisa, la più tragica storia d'amore di tutti i tempi. In una rurale cittadina americana vive in famiglia l'adolescente Susie, appassionata di fotografia con una cotta per un compagno di scuola. Incapace purtroppo di intuire il pericolo, Susie cade tra le mani del garbato signor Ray, vicino di casa, che in realtà è un serial killer che violenta e uccide brutalmente ragazzine e donne. Dopo il trapasso, Susie si ritrova in un limbo da cui può seguire senza poter interferire la vita di famiglia, degli amici e dello stesso signor Ray, pronto a mettere le mani su Lindsay, sua sorella. Dal regista Peter Jackson, regista della trilogia Signore degli Anelli, c'è questa interessante lettura dell'omonimo libro, Amabili resti, anche se incapace di raggiungere la stessa profondità d'animo. La produzione di Steven Spielberg, il DVD è di ottima qualità, segnalo soprattutto il Blu-ray, assolutamente da riferimento, unico neo la traccia in italiano solo Dolby Digital Multicanale, in DTS quella ad alta risoluzione. È un'edizione doppio disco anche in Blu-ray, con il secondo che contiene praticamente 3 ore che permettono di seguire la realizzazione del film un ciacco dopo l'altro. E noi siamo in chiusura, finisce qui la Rosa Purpurea di questa settimana, un altro passo verso l'estate, un altro passo verso il periodo nel quale il cinema in sala avrà il suo fermo biologico, chiamiamolo così, ma cercheremo lo stesso di scavare qualcosa da proporvi per passare 2 ore quantomeno all'aria fresca. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.